Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è la terza parte di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, terza parte che prevede, come sempre, gli incipit. La terza e la prima l'avrete capito, le parti dispari hanno l'incipit all'inizio, invece la seconda e la quarta hanno gli incipit nel mezzo, il tutto invertito per quanto riguarda invece gli estratti dalle versioni originali dei film. Il film di questa settimana, nel caso non lo abbiate ancora riconosciuto, e diciamo un po' mi spiacerebbe, è Toy Story, sicuramente uno dei migliori film di animazione di sempre. Giudizio, come ripeto tutte le volte, assolutamente soggettivo. Vi devo ricordare anche i biglietti per Marco Parente il 28 di giugno, DVD Recording alla Casa 139 di Milano. Quando mia madre morì, lasciò la fattoria a mio fratello Cassis, il patrimonio in cantina a mia sorella Renclaude e a me, la minore, il suo album è un vaso da 2 litri con un unico tartufo nero del Périgord, grande come una palla da tennis, è sospeso in olio di girasole che, una volta stappato, emana ancora il ricco profumo dell'umida terra del bosco. Una distribuzione piuttosto diseguale dei beni, ma in effetti mamma era una forza della natura e concedeva i suoi favori come le pareva, senza lasciare intuire i meccanismi della sua logica stravagante. Questo era l'incipit di 5 quarti d'arancia di Joanne Harris. Thank you. Eclettica. We'll be right back. messicani Rodrigo e Gabriela con il loro disco pubblicato ormai da qualche tempo a questa parte, Tamacune Amuleto, con produzione di John Leckie, ovvero sia Radiohead, Stone Roses, New Order, My Morning Racket, Muse come nomi prodotti prima di Rodrigo e Gabriela, che messicani sì lo sono, però ormai fanno di base in Europa, per la precisione in Irlanda. Ecco, da quel disco Tamacune Amuleto ci eravamo ascoltati più di un brano, compresa anche una cover direi abbastanza classica di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, e immagino che abbiate riconosciuto qualche arpeggio di quella canzone in questa versione remix, in un disco tutti di remix estratti da Tamacune Amuleto, che Rodrigo e Gabriela hanno in questo momento dato spazio, o meglio io ho dato spazio a loro sulle frequenze di Rock FM in Eclettica. Sì, mi stavo un po' impapinando. Invece in apertura di questa terza parte ci siamo ascoltati da Baltimore i Wilderness, che incidono per Jack Jaguar, Wessel States, il titolo dell'album da cui ho estratto il brano intitolato Emergency. Ora proseguiamo con uno, l'ho detto anche in chiusura della settimana scorsa, uno dei pochi dischi di cui in questa stagione io abbia avuto un parere più che positivo, da cui io abbia recuperato buone sensazioni. Ve ne ho elencati quattro. Uno di questi quattro è un disco, pur essendo il secondo, di un artista perlomeno a me sconosciuto, Jody Wildgoose, arriva da Sheffield, UK, Afterlife, il titolo dell'album, e Pop Music invece è il brano. Look, we're all very impressed with Andy's new toy. Toy? T-O-Y. Toy. Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger. The word I'm searching for, I can't say, because there's preschool toys present. Here comes trouble. Hey! Ritroverete anche come pillola, l'ultima pillola della settimana in corso, quindi dal punto di vista cronologico, la pillola di domani. Loro si chiamano Evangelicals, sono il secondo disco, vengono dall'Oklahoma, per la precisione dalla città di Norman, e sono usciti per la Misery Record con questo disco, rettifico quanto appena detto, il loro disco d'esordio, visto che si sono formati l'anno scorso, disco dal titolo So Gun, dal quale noi ci siamo ascoltati Here Comes Trouble. E prima di lasciarvi con l'ultimo brano di questa terza parte di Eclettica, vi devo ricordare che all'indirizzo giulio@radiorockfm.com avete la possibilità di vincere non solo i biglietti per Marco Parente, come già vi ho detto, ma anche, in preparazione delle date che faranno in Italia a luglio, anche i dischi, sto parlando di singoli, dei Flaming Lips. Quindi scrivete a giulio@radiorockfm.com per tutto questo, e anche nel caso vogliate essere iscritti alla lista nera di Eclettica per ricevere le playlist settimanali della trasmissione. Vi lascio, è probabilmente l'ultima volta, poi lo metterò in un cantuccio. Vi lascio con Versions, disco di remix da parte dei Thievery Corporation di tante canzoni. Noi ci siamo concentrati solamente su due, è stata così una scelta editoriale tutta mia. Prima sulla versione di Strange Days dei Doors e poi sulla versione invece rifatta dai Nouvelle Vague di This Is Not a Love Song dei Public Image, però qui remissata dai Thievery Corporation. Eclettica, fine della terza parte.